La chiamavan capinera per i suoi ricci neri e belli, stava sempre fra i monelli per la strada tutto il dì. Scalza la c'era una sera, ma prestava a rincasare. Col visino suo di cera me la vidi avvicinare. Dammi un soldo, ho tanta fame, hai la mamma, non ce l'ho, e il tuo babbo, la tua casa, ed è triste, non lo so. Provai una stretta al cuore quella sera, la mia casetta accolse capinera, e lei cantava, cantava, giuliva, di trilli e gridi la casa m'empiva, ed un bel sogno nel cuore carezzavo, la contemplavo, forse l'amavo. 13 anni lei compiva, s'era fatta pensierosa, pensi forse a qualche cosa che ti manca, non lo so. Primavera, sole e fiori, capinere sempre là, sta affacciata e guarda fuori, cosa vuoi, la libertà. Non hai casa, non hai mamma, dove andrai? Rispose, andrò con la mano piccolina, l'orizzonte mi insegnò. Provai una stretta al cuore finché una sera più non trovai a casa capinera. Di trilli e gridi la casa m'empiva. La contemplavo, forse l'amavo. Fu in un'alba di gennaio, dopo l'orgia rincasavo. Nevicava e m'apprestavo già ad aprire il mio portone, ma a distanza molto breve vidi un certo non so che affiorare fra la neve. Dissi allora, vediam cos'è. Eran cenci, io li rimossi, diedi un grido, due piedini scalzi e rossi, poi le mani, poi un visino. Un urlo mi sfuggì vedendo che era la mia piccina, la mia capinera. Forse pentita al suo nido tornava, forse qua giù che le aprì si invocava, mentre la neve saliva, saliva, e le